La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi parleremo in termini di economia e di fiscalità. Voi dite, ma non ha mai trattato questi argomenti, non è una materia che tu maneggi bene. Sì, veramente, la maneggio pessimamente. Non è il mio campo, preferisco ascoltare l'ottimo collega Oscar Giannino, preferisco ascoltare i colleghi di Radio 24, interessato anch'io, ai miei personalissimi e limitatissimi problemi di risorsa, di sostentamento, di futuro dei miei soldi. Però una cosa ho notato da profano, ho notato che si sta rascando per quanto possibile l'evasione fiscale, ciò che si riesce a racimolare, a prendere, riportando in casa risorse che altrimenti andrebbero dissipate perché c'è un altissimo tasso di evasione in questo paese. Vedo che via via ci sono iniziative anche molto visibili, molto importanti dal punto di vista mediatico, il blitz fatto a Cortina, il blitz fatto ai negozi di lusso del centro di Roma, le operazioni fatte che dimostrano quanto un barista o un gioielliere riesca a sopravvivere con pochi spiccioli al mese, quindi ci sono dei grossi margini di recupero. Però c'è un'attività, e ve lo dico, dico subito come premessa, non c'è nessun desiderio di pruderio, di scandalizzare o di stupire o di cercare facili effetti. Lo dico perché ne sono realmente convinto. Mi sono fatto questa opinione. Esiste un mercato sommerso in Italia, esiste un proficuo, una proficua attività economica molto frequentata che secondo me potrebbe portare un buon ritorno di risorse nelle casse dello Stato. E non rabbrividite, non ve la prendete con me, è il giro, è l'indotto che sta attorno alla prostituzione. Quando parlo di prostituzione voglio fare un distinguo. Esiste un problema prostituzione che è problematico non da un punto di vista di giudizio morale, ognuno fa quello che vuole, ma perché comporta lo sfruttamento e la schiavizzazione di esseri umani. È una cosa orrenda e rientra nella materia dei reati e da perseguire penalmente. Quando io vedo ragazze minorenni ai bordi delle strade di etnie esotiche stare lì e prostituirsi, capisco che sono delle schiave, sono persone che sono lì messe da altre persone, che sfruttano il loro lavoro, sfruttano la loro vita. Ho orrore e disagio nel vederle lì. Immagino le normalissime, tranquillissime, rispettabilissime persone che usufruiscono di loro alimentando il mercato dello schiavismo. E questo è un tipo di problema che non vorrei trattare questa mattina, non perché non sia un problema scottante o interessante, perché non rientra nella fascia di cui voglio parlare. Io voglio parlare della prostituzione di fascia medio-alta, cioè quella che prescrive che alcune signore o signorine, per loro indiscutibile scelta, decidono di prostituirsi, si organizzano per prostituirsi, senza protettori, senza intermediari, senza alimentare il papponaggio. Prendono un appartamento e cominciano a esercitare il mestiere di prostituta e hanno notevoli introiti, notevoli incassi, giustamente, fanno un lavoro, è giusto che siano pagate. Sì, però tutti questo giro di denaro, sia da parte di chi elargisce la somma, quindi usufruisce del servizio, da parte di chi ha la giusta remunerazione del proprio lavoro, è un denaro che rimane sommerso. Ora, se io devo andare in banca e prendere una cifra cash oltre 1000 euro, devo firmare un foglio in cui devo spiegare che mi occorrono per usi personali, devo farci la spesa, devo comprarci la mortadella e l'olio d'oliva, perché il sospetto che posso usarli magari per pagare al nero un idraulico, per pagare al nero una qualsiasi prestazione professionale, in quel caso incorrerei in un reato, alimenterei il mercato dell'evasione fiscale. Ma io, se questa cifra la impiego per andare con una prostituta, apparentemente nessuno può dirmi nulla, perché la prostituta ha il diritto di esercitare il suo mestiere, io ho il diritto di andare a riscuotere la prestazione in cambio di un pagamento, ma la nostra transazione di denaro rimane naturalmente sommersa. Non esiste una certificazione fiscale, non esiste una ricevuta fiscale, non esiste uno scontrino, in nessuna maniera questa cosa è certificabile. Io penso che, visto che secondo me il gettito è abbastanza notevole, è grosso, io è sufficiente che vada in internet e metta in un motore di ricerca la parola escort, ho milioni di risposte. Ci sono milioni e milioni di risposte alla parola escort, e questo evidentemente fa sì che ce ne sia una notevole offerta. Se prendo un qualsiasi sito che tratta appunto compravendita di prestazioni sessuali, ne prendo uno a caso, Escort 5 Stelle, in cui le donne sono classificate come se fossero appunto hotel o alberghi. È un sito molto patinato, molto lussuoso, nel quale ogni città ha la sua offerta, come se fosse una sorta di catena di negozi, c'è Michelle a Milano, Ginevra a Roma, Valentina sempre a Milano, Nicole a Roma, poi ci sono a Lodi, Barbara di Lodi, De Mist di Milano, ma se entro ad esempio nella pagina personale Barbara di Lodi c'è il suo numero di telefono, vengono elencate le sue caratteristiche, c'è lei esposta in alcune foto che naturalmente espongono e spiegano la ragione sociale per cui c'è questo annuncio, c'è lei inginocchiata sul letto, lei in piedi davanti al termosifone, lei che fa vedere le tette, insomma mostra quello che è, quindi è inequivocabile, anche se poi nelle FAQ del sito, nella pagina di spiegazione, spiega che la escort non è una prostituta, la escort è un'accompagnatrice, che queste sono verificate al 100%, quindi hanno verificato coloro che costruiscono questo sito che le foto corrispondano alle persone. Naturalmente non sono prostitute, ma se vado avanti nella sezione trans, ad esempio, vedo signorine con degli obelischi tipo la colonna Antonina, che probabilmente come oggetto di accompagnamento mi sembra un po' sopra le righe, però evidentemente, quindi palesemente, queste sono signore che esercitano una professione, che si fanno pagare, presuppongo che le tariffe non siano proprio economico alla portata di tutti, dato la patinatura dell'offerta. Ma queste signore le pagano le tasse? I signori che vanno lì hanno modo di scaricare la cifra che loro spendono? Tutto questo giro di denaro a quanto ammonta? E tutti questi soldi perché devono rimanere sommersi? Perché, vi rispondo subito perché, perché parliamo di una materia che è molto delicata. Rispetto al commercio della sessualità, al di là dei canoni prescritti dalle norme etico-religiose, c'è un grande sommerso, non si dice, non si sa, nessuno potrebbe mai fare una legge per cui dice diamo trasparenza e diamo riconoscimento alla prostituta come una normale lavoratrice, e quindi anche lei pagherà le tasse, anche lei avrà la pensione, anche lei naturalmente sarà una lavoratrice come altri. Anche perché lo sapete qual è il paradosso? Se io, mettete caso, mi procuro una distorsione e debba andarmi a fare un massaggio terapeutico alla schiena o a un ginocchio o a un gomito, in questo momento ho un problema dato dal tunnel carpale, potrei andare da un qualsiasi terapista e farmi fare un massaggio, naturalmente potrei scaricarlo alla mia cassa muta e avrei una ricevuta fiscale di quello che pago. Ma se il massaggio invece che farmelo al ginocchio, al braccio, al collo, me lo fa in un'altra parte, che non voglio nominare alla radio, ma molto comprensibile, improvvisamente entriamo nel mercato della clandestinità. Ma è così importante la deriva anatomica dell'applicazione del professionista per cui ci debba essere un mercato così sommerso, in un momento in cui si sta raschiando il barile cercando di portare a casa tutto ciò che sfugge alle maglie del fisco? 800240024, questa è la domanda. Ciao, vieni a vedere quanto sono bella. A 40 anni sono una venere tacciabile. Mi chiamo Carmen, una bella moretta di collina. Ho la testa di seno naturale, il culetto tondo tondo. Io sono la più bella, la più brava, la più economica e la più porcellina. Io sono la più che piace a te. E con la promozione, 50 euro, facciamo tutto. Sponda francesina, spagnola, banana sprint e anche forchetta ungherese. Per te che sei amante di un bel ricco, lunghissimo... Questo naturalmente è una delle tante maniere che hanno queste signore di farsi pubblicità. Questa probabilmente appartiene a una fascia non di quelle patinate lussuose di cui sto parlando, Perché di questo voglio parlare oggi, non voglio parlare della schiavizzazione del mercato clandestino e criminale della carne umana, voglio parlare di libera scelta di esercitare una professione, visto che la domanda c'è, la domanda è notevole, ho detto prima, 299 milioni di risposte mi dà Google alla domanda escort, e guardate, qualsiasi sito di escort è un normale catalogo, sembra il catalogo dell'IKEA, ci sono disponibili tutte le possibilità di scelta, uno può scegliere, può pagare, può ottenere quello che in un libero mercato viene offerto. Ma dal punto di vista fiscale tutto questo denaro rimane nascosto, rimane una grande massa, piacerebbe sapere anche quanto mediamente si spende, quanto ammonta questa cifra. Mirko, buongiorno. Mirko? Mirko è caduto, aveva telefonato ma è caduto in questo momento. Sara, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo parlare la prostituzione e delle case chiuse. Case chiuse è un termine abolito dagli anni 50. Sarebbe bene invece, secondo me, riattivarlo per diversi motivi. Parlando di prostituzione... Ma perché le case chiuse? Scusi, perché creare... Quando già esiste la possibilità attraverso la rete in questo ha supplito a tutte le forme di pubblicità possibili, esistono già dei database molto particolareggiati, città per città, quartiere per quartiere, con foto, con telefoni, con indirizzi, addirittura con le possibilità da parte dei clienti, come avviene per gli alberghi o le catene di bread and breakfast, scusate, di poter dare il proprio parere, quindi ci sono le persone, allora, dicono qui mi sono trovato benissimo. Cambiamo il termine, non parliamo di case chiuse, parliamo di una ufficializzazione di quello che è il mestiere più antico del mondo, che è la prostituzione. Io sto parlando della fiscalizzazione adesso, non mi interessa infatti, sapere. No, ma infatti è questo il punto dove voglio arrivare. Questo è un mestiere che c'è sempre stato e sempre ci sarà. Il fatto di che lo Stato italiano a un certo punto abbia negato questa forma di professione ha portato un proliferarsi di situazioni di sfruttamento della prostituzione. Se la prostituzione venisse riconosciuta effettivamente come un'attività lavorativa, secondo me ci sarebbe, oltre a quello che è il vantaggio fiscale della tassazione, dell'emersione di tutti quelli che sono i flussi di denaro legati alla prostituzione. Oggi è soltanto quello di cui voglio parlare. Anche un miglioramento di quello che sono le condizioni stesse delle prostitute, non tanto delle escort. Ma di quelle sto parlando. No, scusi, Sara, non voglio uscire da tema oggi, perché oggi... È un altro argomento, un altro tema. Oggi parlo di un mercato che già esiste, già organizzato, già con tutte le sue capacità di collocazione logistica nel paese. Sono persone che già esercitano una professione, come se fossero dentisti, medici, psichiatri, fisioterapisti. Hanno il loro appartamento, hanno il loro orario di lavoro, hanno la loro pagina internet, hanno le loro tariffe, hanno i clienti che danno il giudizio sulla loro professione, quindi già esiste. Non voglio inventarmi un'altra cosa. Vorrei capire, visto che questa fetta già esiste, già c'è un'attività commerciale, reale, certificata, in questo momento do una notizia criminis, se volete, chiunque può andare in un sito internet e vedere quante persone in questo momento stanno lavorando e non pagano le tasse e quante persone elargiscono prestazioni professionali senza ottenere in cambio una ricevuta fiscale. Entrambi incorrono probabilmente in un reato, questo domando io. Piero, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei portare l'esempio della Germania, dove veramente il mercato è regolamentato e inoltre sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista anche medico ci sono dei controlli, quindi credo che quello sia l'unica soluzione. Perché... Sì, io adesso non sto qua a fare come negli anni 50 la Wasserman, il controllo medico, queste persone è giusto che abbiano anche la loro... Se hanno possibilità di avere un'assistenza medica, perché non devono averla, perché non devono avere l'assicurazione, perché non devono avere la pensione, se rimangono incinta perché non devono avere l'assistenza per la maternità, se sono lavoratrici a tutti gli effetti. Io, guardate, sono così laico in questo momento che non faccio differenza fra chi fa un massaggio alla cervicale e un massaggio sotto l'ombelico, è la stessa cosa da questo punto di vista, se quella è una professione che esercitano. Grazie a Visconti, buongiorno. Buongiorno. Grazia Visconti ha scritto un libro, Escort Life, sex inchiesta sul mondo dell'esquillo e di gigolò di lusso in internet, edizione Aliberti. Tu hai già un quadro probabilmente che può aggiungere qualche numero e qualche cifra rispetto alla mia domanda. La domanda me la sono posta ieri pomeriggio, oggi tale quale come la sono posta la pongo alla radio. Trovi che ci sia già un mercato organizzato, un lavoro che abbia già ormai tutte le sue caratteristiche, i suoi canoni per essere considerato una professione a tutti gli effetti, che manca soltanto la fase finale, il riconoscimento e la fiscalizzazione degli introiti e dei passaggi di denaro? Assolutamente sì, tant'è vero che le ragazze che si prostituiscono online hanno il loro sito, come dicevano appunto prima i radioascoltatori, sì. e hanno comunque un sito, si gestiscono autonomamente, quindi scompare la figura del protettore e sono un po' le imprenditrici di loro stesse. Non sono nemmeno clandestine, perché chiunque basta che va in internet le vede. Le vedo io come le vedrà il funzionario dell'Agenzia delle Entrate o il finanziere, sa che ci sono. Infatti loro hanno proprio un'organizzazione che si gestiscono in modo autonomo, a differenza insomma della prostituta tradizionale, quella in strada, che invece ha bisogno magari di una protezione e quindi tutta una serie di cose completamente diversa. Tuttavia è difficile, veramente impossibile, è difficilissimo poter fare una stima della prostituzione online. Come diceva prima Pia Covre, si va su un motore di ricerca, si digita la parola escort e quello ok. L'ho detto però, io, sì. È comunque difficilissimo, perché poi c'è un problema in Italia, lo sappiamo tutti, della tutela della privacy, c'è questa legge che insomma alla fine blocca un po' il tutto. Sì, però mi scusi, prego. Io se cerco Rosalinda da Cremona, ho il suo telefono, il suo indirizzo, mi dice esattamente quello che fa, mi dice il suo orario di lavoro, è come se mi rivolgessi a una qualsiasi altra professionista, a un'agenzia di pulizie, un'agenzia di transazioni economiche, un'agenzia che si occupa non so, di feste, di intrattenimenti, quindi non c'è nessuna clandestinità, io mi rivolgo a un'organizzazione che svolge un servizio e in cambio viene pagata. Certo, sì, questo è vero, però c'è sempre comunque il mondo che è completamente sommerso, il mondo della prostituzione online. Sì, io non so molto la cosa sia molto sommerso, perché se io adesso faccio una telefonata mi risponde questa signora. Allora, c'è un anonimato che lei sa benissimo che in internet è completamente, cioè nel senso le ragazze comunque non si espongono più di tanto, le ragazze utilizzano uno pseudonimo, utilizzano a volte il viso oscurato, quindi non è che... Quelle che vedo io non sono oscurate, c'è addirittura una certificazione da parte del gestore del sito, dice io vi certifico che le persone corrispondono alle foto, poi sì, basta sì, telefonare. Non è sempre così, io ho condotto questa inchiesta che è durata 3 anni e ho anche verificato queste cose attraverso appunto i gestori dei siti e molti lasciano passare, lo dico veramente, che insomma non dovrebbero farlo, ecco, dovrebbero fare una sorta di schedatura che poi alla fine va a scontrarsi, come sappiamo benissimo, con la legge del 58, quindi insomma è vietata, però loro dicono che insomma le ragazze sono completamente... Lei ha avuto modo di parlare con qualcuna di queste professioniste? Assolutamente, sì, ne ho intervistate tantissime. È possibile dare un quadro medio, diciamo, della prostituzione di livello medio-alto, quella di cui vogliamo parlare oggi? Diciamo, quelle che non hanno un protettore, non sono sfruttate. Esatto, infatti le ragazze che sono online, che hanno un sito internet, che si gestiscono in modo autonomo, quindi dal marketing del sito all'organizzazione poi del lavoro vero e proprio, lo fanno tutto da solo, quindi è un lavoro, cioè un'attività che loro svolgono in maniera completamente autonoma, ecco, però appunto questa non è tassata. Io mi ricordo che una ragazza mi disse in particolare, e infatti mi sorprese tantissimo questa cosa, che rilasciava delle ricevute, ovviamente delle ricevute non con la dicitura prestazione professionale. Ma sufficiente qualità. Mettere massaggi e cure estetiche. Esatto, metteva, che ne so, guida turistica piuttosto che hostess, ha capito, insomma, cose di questo genere. Però mi ricordo che mi disse questo. Ma posso dire, per assurdo, starebbe bene anche quello. Se le chiamiamo accompagnatrici, poi un'accompagnatrice nel corso dell'accompagnamento può anche decidere di appartarsi con il suo accompagnato, sono fatti suoi, purché questa cosa non rimanga nella totale e assurda e nascosta e non evidenza. C'è stato un esempio, giorni fa apparve in rete l'annuncio di una prostituta che si dichiarava disposta e disponibile a pagare le tasse. Scrivo questa lettera perché appartengo ad una categoria di persone che tanto vorrebbe pagare le tasse, ma che in questo paese non gli viene permesso. Mi chiamo Marina e sono una escort, termine abusato negli ultimi anni. Tanti paesi civili europei lo hanno fatto da anni. In Italia la legalizzazione della prostituzione non solo porterebbe tanti milioni, se non miliardi di euro, nelle casse dello Stato, ma risolverebbe indirettamente anche il problema dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani, dei quali sono vittime numerose ragazze, non solo dell'Est Europa, ma anche del Centro Africa e sempre più anche cinesi. In Italia, negli ultimi 20 anni circa, davanti a un problema si è preferito chiudere gli occhi facendo finta che non ci fosse, piuttosto che adottare delle valide strategie per risolverlo. Credo che il governo Monti debba includere nella sua manovra sul lavoro anche la possibilità di legalizzare la prostituzione, che significa altresì far emergere il lavoro sommerso di circa 300.000 individui fra donne, trans e uomini, che oltretutto risultano per lo Stato disoccupati. Legiferiamo sulla prostituzione, fateci pagare le tasse, fateci aiutare il nostro paese. Questa è la sintesi del pensiero che volevo sottoporre ai miei ascoltatori questa mattina e su quali vorrò continuare a riflettere tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Melog, la realtà condivisa. Stiamo parlando questa mattina della professione della prostituta. Possiamo chiamarla con un termine più accettabile, più edulcorato, escort, accompagnatrice, chiamatela come volete, che comunque rappresenta una fetta notevole di un mercato che esiste, è impossibile non osservarlo, soprattutto dopo che la rete è diventata uno degli strumenti di marketing più efficace, più esteso per un'infinità di attività. Anche l'attività dell'escort e dell'accompagnatrice ha i suoi siti, i suoi database, le sue possibilità di rintracciare datrici di servizio in ogni città d'Italia, dove è possibile verificare i numeri di telefono, chiamarle, vedere le foto. Poi sulla verosimiglianza tra le foto e l'originale è un altro tipo di problema. Comunque anche la merce che viene molte volte fotografata e venduta online ha caratteristiche molto più appetibili rispetto a quello che poi ci arriva veramente a casa. Questo fa parte delle regole del mercato. 800 24 00 24, per approfondire questo problema chiamiamo la fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, che è un personaggio che da anni dice la sua nel tema, che è Pia Covre. Pia Covre, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Mi scuso con lei che l'ho tenuta un quarto d'ora al e più. Al freddo, qui siamo meno 5. Mi dispiace molto, ma dovevo dare un attimo l'idea di quelle che sono le opinioni di quelli che ci ascoltano. Adesso ha modo di dire la sua. Lei cosa ne pensa di questa cosa che mi è venuta in mente questa mattina? È veramente reale e concreto il fatto che sarebbe ora che, da un punto di vista fiscale, chi esercita questo mestiere paghi le tasse come tutti, ma abbia anche un riconoscimento professionale come ogni qualsiasi altra professione? Allora, guardi, io vorrei per fare chiarezza riassumere due cose. Primo, io escluderei i termini come prostituta, escort e così via, e radunerei tutto sotto lavoratrice del sesso, lavoratori così e lavoratrici del sesso, ok? Perché questo, poi i contesti in cui una persona lavora, e quindi se guadagna di più, se guadagna di meno, se è contesto ricco o povero, o sulla strada, o in un hotel, oppure in una casa privata, cioè tutto diverso, può essere tutte queste cose. Operatrice e sessuale, ecco, chiamiamo questo. Possiamo scegliere, io preferisco lavoratrice perché già dà molto l'idea chiara che è un lavoratore, ok? Se noi riconosciamo che queste persone sono dei lavoratori, delle lavoratrici, e quindi hanno legalmente il diritto di esercitare questo lavoro o di fare questo tipo di servizi o il tipo di servizi che loro desiderano autonomamente, autogestiti, auto-organizzati, certamente lo Stato potrà pretendere che queste persone paghino le tasse. Su come organizzare il pagamento delle tasse ovviamente vanno fatti degli studi, perché esattamente come in tanti altri settori, qui lei mi dice c'è quella che sta in internet e guadagna moltissimo, ci sono quelle sulla strada di Bologna dove vanno a schedarle, che sicuramente non hanno le stesse entrate. Detto questo, Io dico che sono che arriva un po' tardi il nostro paese e sta vivendo e sta mettendo questa questione ancora una volta sotto la lente dell'emergenza. Ora hanno l'emergenza denari, quindi devono cercare di tirarli su da qualche parte. No, me lo sono inventato 30 anni fa. Pia Cobro, scusi. Solo per chiarire, me lo sono inventato io questa mattina, non c'è nessuna proposta di legge. Purtroppo non l'ha inventato lei stamattina, se lo sta inventando l'agenzia delle entrate. Ah, lo stanno, mi dà una notizia, non lo sapevo. Io le posso dire che in questo periodo, almeno negli ultimi 2 anni, ci sono stati un sacco di accertamenti verso donne transessuali che fanno questo lavoro, dove sono stati incrociati i dati rispetto al fatto che avevano comprato un appartamento oppure avevano versato. Ma come mai per le gioiellerie, per i fruttivendoli c'è tutta questa pubblicità nei giornali e per gli accertamenti leciti? No, ma in questo... qualcosa si scrive anche su questo, se la schedatura fatta dei siti internet dalla Guardia di Finanza di una città lombarda, non ricordo se Bergamo o Brescia, alcune nostre utenti, cioè ragazze che hanno dovuto affrontare, hanno fatto opposizione contro la richiesta di pagare il fisco. Ma il fisco come fa a chiedere a un'operatrice? Come fa a chiedere a dai evasori fiscali? Questo è il problema. Scusi, ma come fa il fisco a chiedere a un'operatrice del sesso paga le tasse per il tuo lavoro, se il suo lavoro non esiste ufficialmente? Io credo che l'Agenzia delle Entrate sta facendo pressione per portare per sollevare una questione che dovrebbe essere messa a posto dal Parlamento. Il nostro Parlamento, il nostro governo non lo fa e quindi l'Agenzia delle Entrate dice: là, ci sono i soldi, io li voglio, perché se tu comunque hai lavorato e hai comprato una casa vuol dire che hai guadagnato e paga almeno l'IRPEF. Sarebbe niente, noi sull'IRPEF siamo totalmente d'accordo. Però hanno ragione, hanno ragione da questo punto di vista. No, sono d'accordo che si debba far pagare l'IRPEF, però il mio lavoro deve essere riconosciuto, legale, non devo essere perseguitata dalla polizia, multata io e i miei clienti se mi beccano per strada. Ecco, mi ricorda dal punto di vista legale, uno può esercitare l'attività di operatrice sessuale a casa sua? Sì. La prostituzione è tollerata, salvo poi che sono criminalizzati il favoreggiamento, l'aiuto, l'affitto di una casa a una prostituta, tutte queste cose qui. L'annuncio, ad esempio, sui giornali e su internet, sono stati denunciati tutti questa gente che fa... che pratica gli annunci, cioè che un sito internet soltanto ieri, guardi, notizia di ieri, finalmente la Cassazione, grazie ad un valente avvocato pordenonese che ha ottenuto questa sentenza, la Cassazione ha detto che non è un reato, però fare gli annunci in internet, però qui c'è stata gente che è stata, come dire, rinviata a giudizio con processi eccetera, i siti sono chiusi. Comunque i server del sito che ho citato io sta in America, stanno tutti all'estero i server di sito. Certamente, ma comunque li cercano di chiuderli lo stesso, le persone vengono denunciate, anche quando pagano le tasse sono in regola per gestire i loro siti, cioè è un mercato assolutamente tollerato, ma tollerato fin quando qualcuno non si alza la mattina e decide di perseguitarci, questa è la realtà. In Europa allora, come in accade questo... invece, Pia Cobro, nei altri paesi europei, com'è regolata? È legalizzata, l'Olanda, la Germania, la Svizzera, sono paesi moderni che hanno legalizzato in maniera moderna, dove una lavoratrice del sesso può decidere dove vuole lavorare, si iscrive con una sorta di partita IVA, cioè non è una partita IVA in realtà, è un codice fiscale, sulla base del quale poi lei farà dei versamenti, si decide anche lì su cosa pagare di tasse. Sull'IVA io ho qualche dubbio, perché se il cliente non vuole la ricevuta, e sfido i clienti italiani a chiedere la ricevuta e a detrarre le tasse, soprattutto quelli sposati e che lo fanno di nascosto, quindi non può essere quello il sistema che funziona. Beh, uno scontrino fiscale poi lo butta via, nessuno gli obbliga. Certamente vanno fatti degli studi di settore, si potrebbe, come fanno anche in Olanda, decidere delle cifre forfettarie, una dice io guadagno così, poi se invece vuoi detrarre tutti i tuoi costi di lavoro accetti di fare invece una dichiarazione dettagliata e quindi puoi anche detrarre i costi, cioè ci sono tanti sistemi, è una sorta di cosa complessa, ovviamente non può essere affrontata come emergenza e soprattutto non può essere lasciata nelle mani dell'Agenzia delle Entrate, che lo fanno come se fossimo evasori e quindi vengono a chiederci i soldi. L'altro giorno ad una donna di Bologna è stata mandata non solo l'invito all'accertamento, non solo per l'IRPES, ma anche la richiesta dell'IVA e l'invito con un codice fiscale dato così d'ufficio, l'invito a pagare l'IVA e anche l'INPS. Questo chiaramente, siccome non è riconosciuto come lavoro, non capisco come l'Agenzia delle Entrate possa fare questa cosa. Mi scusi Pia Cobro, dal punto di vista del cliente, se io pago una prestazione professionale, se do 2000 euro a un'operatrice del sesso, anche io compio un reato, perché do del denaro cash che oggi non potrei dare nemmeno più di 500 euro. Beh, se non rendendo conto a chi e come dove. Questo da oggi probabilmente diventa un problema, certamente. In passato comunque ci sono state, fino all'altro ieri, io so sicuramente delle escort che hanno la carta di credito, cioè incassano con carta di credito e tutto il resto, non c'è un ostacolo, non c'era in Italia un ostacolo a incassare denaro. Così come tutte ingenuamente li hanno messi sempre in banca, non hanno mai pensato che poi questi passaggi del denaro in banca può essere verificato e controllato, e quindi poi gli possono chiedere le tasse. Oggi con la tracciabilità, metta caso che ogni giorno uno va a portare in banca. Secondo me tutto questo dovrebbe essere superato se noi facessimo una legge dove riconosciamo questo come una professione, un lavoro, quindi un lavoro dove ti danno un'iscrizione, perché oggi abbiamo provato, alcune sono andate a chiedere, voglio fare la denuncia di redditi, si mettono a ridere, ai CAF ad esempio ti guardano e ti dicono ma non sappiamo come metterlo, non c'è una regola. Allora bisogna sicuramente che lo Stato, cioè che il governo, che il Parlamento decida di legalizzare questa attività come un lavoro, e poi va fatte delle commissioni di studio su come si può applicare la tassazione a seconda dei vari settori. Però lei, Piacovre, è troppo dentro alla materia da tanti anni per non capire che nessuno mai si farà portavoce di un'iniziativa parlamentare in questo senso, pure no, degli strali che possono venire. No, allora io mi lasci dire quello che penso. Noi abbiamo un Parlamento dove, come dire, fallimentare, ma l'abbiamo avuto in questi anni. È dal 1982 che presentiamo proposte di legge spingendo attraverso i radicali, attraverso altri partiti in passato, anche adesso c'è una proposta di radicali, spingendo perché si legalizzi questo lavoro e dicendo, voglio dire, se una sceglie di farlo, si iscrive, poi ci sarà chi lo fa part time, ci sarà chi lo fa una volta, sfuggirà un sacco di cose, ci sarà anche lì come in tutti gli altri settori. Come gli idraulici è la stessa cosa, ma esattamente, è chiaro. Ma però, voglio dire, se vogliamo arrivare ad un punto dove ci sia rispettabilità e rispetto per le persone che lavorano e per la loro clientela, perché questo è il problema, noi non abbiamo rispetto in Italia né di quelle che lavorano né di quelle che servizio, come dei clienti e di queste persone che servizio lo chiedono, per cui è vergognoso. Si trattano da delinquenti, si trattano da posso aggiungere una cosa, Piacovre, c'è un'idea generalizzata che in realtà chi si rivolge a una prostituta è soltanto un vizioso, ma non si considera che esistono delle categorie di umanità, gli anziani, i portatori di handicap, sono persone che hanno diritto comunque a una loro sessualità. Assolutamente, cioè negli altri paesi come l'Olanda e la Germania, per le persone con handicap particolari che hanno bisogno comunque di garantire questo bisogno che è di vivere la propria sessualità, ci sono servizi che sono pagati dallo Stato, cioè fanno parte del servizio sanitario pubblico. Allora io voglio dire, solo in Italia possiamo essere così bigotti e moralisti di lasciare al margine tutta questa fetta di società solo perché qualcuno ci dice che vivere felicemente la propria sessualità e liberamente, questo è un peccato, cioè, ma quando mai? Ci fermiamo un istante, Piacovre, ci fermiamo un istante, devo dare le informazioni del traffico, riprendiamo fra un minuto con Melog 800 24 0024. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 800 28 11 11. Melog, la realtà condivisa. Sulle strade italiane ogni anno si prostituiscono circa 30.000 persone, che rappresentano il 65% del totale delle prostitute. Di queste, infatti, solo il 35% esercita la propria attività in case private o locali. Ogni mese una prostituta rende al proprio sfruttatore dai 5.000 ai 7.000 euro. Sono 9 milioni i clienti che si rivolgono al sesso a pagamento. 90 milioni di euro è l'ammontare mensile stimato del business della prostituzione in Italia. Questi sono dati di uno studio fatto dall'Università di Trento, che è stato confermato e aggiornato solo pochi giorni fa da un'indagine del gruppo Abele di Don Ciotti, che dà un'idea generale di quale sia il fenomeno prostituzione in Italia. Rispetto a quello che stiamo dicendo questa mattina di una necessità di allinearsi comunque ad altri paesi europei, molto più avanti dal punto di vista della civilizzazione rispetto a questo problema, che è un problema che esiste, però è tenuto sommerso perché? Perché esiste un grosso pregiudizio rispetto alla libera espressione della propria sessualità. Mi scrive infatti l'ascoltatore Andrea su Facebook, dice che in realtà il vero problema è che su questa ipotetica ricevuta fiscale bisognerebbe scrivere massaggio erotico, non massaggio erotico con eventuale prestazione sessuale, ma massaggio rilassante e distensivo, così uno potrebbe portarla a scaricare senza nessun problema dal suo punto di vista. Abbiamo sentito all'inizio della trasmissione Grazia Visconti, che è una scrittrice che ha scritto un libro, Escort Life, Sex, inchiesta sul mondo delle squillo e dei gigolò di lusso in internet, editore Aliberti. Grazia Visconti, rispetto a quello che ha detto Pia Covre, la rappresentante ufficiale delle operatrici del sesso da anni in Italia, e rispetto alle persone che lei ha sentito nell'inchiesta che ha fatto per scrivere il suo libro, trova che sia il momento giusto per portare alla luce questo problema e per risolverlo? Oppure ancora esiste una così grossa e immarcescibile massa di pregiudizio rispetto a questa attività di tipo religioso, confessionale, per cui non se ne parlerà mai concretamente? Allora sì, tra gli italiani soprattutto esiste questo problema, tant'è vero che sono le straniere più che altro che riescono ad uscire allo scoperto, gli italiani sono molto molto, è molto difficile riuscire a individuarli, a tracciare insomma il loro percorso di escort, di accompagnatrice. Io vorrei aggiungere che c'è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione e anche molte sentenze delle commissioni tributarie che hanno equiparato l'attività di prostituta come reddito di lavoro autonomo, per cui vanno tassate. Però c'è il problema che sono perseguibili diversamente la prostituzione di strada da quella di lusso, no? Perché la prostituzione di strada ovviamente non ha le ragazze che lavorano in strada, oltre ad essere sfruttate, non hanno beni immobili intestati, quindi non sono aggredibili da quel punto di vista lì, mentre le ragazze che svolgono la professione in internet, soprattutto la classica prostituzione di alto bordo, è più facile riuscire ad individuarle. Ma diciamo la maggior parte delle volte, soprattutto le ragazze straniere minorenni, va nelle casse delle organizzazioni criminali, quindi esatto, è tutto un altro problema. Quella è una tratta delle schiave. Esatto. Mentre invece adesso con tutto quello che avviene, la prostituzione di lusso in internet, è molto più facile. Di lusso, riuscire... medio lusso, cioè per tutte le portate, indubbiamente, ormai non è più un lusso avere un sito. Sì. Esatto. Perché hanno che conti correnti intestati, hanno insomma un altro tipo di giro. Da qualche parte devono mettere i soldi che guadagnano. Quando aprono un conto in banca, oggi con la trasparenza, la tracciabilità di ogni nostro passaggio di soldi, è chiaro che a un certo punto con l'incrocio dei dati qualcuno si domanderà perché questa signora ogni giorno versa 1000 euro, 500 euro, 10.000 certo. euro a seconda. E li scatta l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e infatti stanno facendo diversi ragionamenti, accertamenti da anni, da diversi anni, e in questo senso proprio per riuscire ad individuare, insomma, a risolvere questo problema in questa direzione. Ecco. Sentiamo Giovanni, l'ascoltatore, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io l'ascolto volentieri tutte le mattine, è sorprendente che abbia di queste uscite, però è interessante arrivare... Perché è sorprendente? Beh, perché il fatto che tutti lo chiamano il mestiere da sempre, il mestiere più antico del mondo, il fatto che vado a chiamarlo lavoro per me è una cosa fuorviante, perché assolutamente è voluto da chi vuole approfittare e guadagnare in questo, perché io penso che... Non mi è molto chiaro, scusi, il suo pezzo non mi è molto chiaro. Allora, svolgono un'attività che ha tutte le caratteristiche di un'altra qualsiasi professione? Io non lo chiamerei proprio un'altra professione. Qual è la differenza? Perché secondo me, da quello che io ho letto finora, si parla psicologicamente di una condizione di condivisione di un piacere sensuale. E quindi è un quale condivisione? Scusi, una porta a due persone che si appaga contemporaneamente quando le due persone sono insieme. Tutti gli altri non hanno più niente a che fare. Ma che sta parlando? Questo. Scusi, sto parlando di signore che svolgono prestazioni tipo sessuale a uomini o anche donne che lo richiedono. Quindi sono delle professioniste, come se facesse un massaggio alla cervicale. Ma queste le abbiamo battezzate noi professioniste. Sono persone che vogliono fare una cosa che in natura è naturale e che si possa fare tutti e che nessuno ne possa trarre guadagno. Ma chi... Ma scusi, è fondamentale. Ma... se poi dopo l'uomo... Ma lei sta parlando, lei sta parlando di rapporti affettivi, amorosi, di relazioni. Qua non è relazione, qua è una tecnica, applicazione di una capacità di dare soddisfazione sessuale a una persona che ne ha bisogno, che lo richiede. L'abbiamo fatta diventare, però, perché poi il dio denaro è quello che guida le Vabbè, cose. Vabbè, Giovanni, siamo su altri piani. Lei ha il suo punto di vista, che lo rispetto, ma è totalmente fuori tema. Lei parla di affettività, di relazione, è un'altra cosa. Qua è, sono persone che hanno bisogno, lecito, desiderio di un rapporto sessuale. C'è chi dà loro quello che loro chiedono e giustamente si fa pagare, perché non è che lo fa, non sono delle croce rossine o delle volontarie del piacere altrui, lo fanno come mestiere. Anna. Senta, guardi. No, mi meraviglio che si possa parlare pronto. Laicamente di questa cosa. Non lo so. Prego, Anna. Parlare, sì, prego, prego. Allora, cioè, lei dimentica quello significato che ha psichicamente l'intimità di una donna, cioè considerare merce l'intimità fisica e psichica di una donna, sì, anche soltanto per soddisfare, come dice lei, un'esigenza sessuale, è una cosa assolutamente okay. Però è un altro assurda. Sì, è un altro problema, un suo punto ma di no, vista. Ma no, lei se la cava con poco. Quale altro problema? Il problema è esattamente questo. Scusi, ma esiste il mercato? Esiste il mercato? Mi deve lasciar parlare. Parli, esiste il mercato. Allora, lei parla di laicità. Questa non è laicità. Questa è veramente il cattolicesimo spinto all'ennesima potenza, mi consenta, perché proprio perché il cattolicesimo ha proibito le relazioni, diciamo, libere e sessuali per secoli, secoli e secoli. Sì, ma un altro si arriva al punto di considerare la merce sesso come un diritto, è una merce, e addirittura si parla di far parlare, di far pagare le tasse. Anna, scusi, non la voglio turbare nelle sue convinzioni, è un altro problema. Non entro in merito all'incapacità relazionale di chi è costretto ad andare con una prostituta, al bisogno di chi non ha altra maniera per esprimersi. Sto parlando semplicemente di un mercato reale, accertato, che ha tutte le caratteristiche di mercato, che secondo me andrebbe fiscalizzato o regolarizzato. Ho detto questo, ma come visto è praticamente impossibile parlare in maniera leggera e scevra da ogni implicazione tipo morale, etico e religioso di questo problema. Ne prendo atto.